lascio il nastrino, porta fortuna che non ci servì. Mi prendo il mio disco di chiar di luni tuoi, li lascio qui. Dividersi i resti come si fa, tagliare i ricordi giusto a metà, contendersi un sogno che non consola, le impronte d'amore sulle lenzuola, quell'aria di eterna vacanza, il po' di speranza che poi si aggiusterà, scordiamola. L'anello con sopra il mio nome, impegnalo, fondilo. Ma scusami se non ti sto lasciando l'enorme piacere di saper che piango, se non voglio farti pagare il vuoto del cuore che mi hai lacerato. Ah già, l'affitto scaduto, il tuo futuro amore ci penserà. Ridami il Neruda che ti ho prestato e che non leggi mai. La borsa è leggera, non disturbarti, io porto con me solo dei rimpianti. Ti stringo la mano e ho nel guardarti la vaga impressione che ho fatto tardi.